Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Non mi piace, disse l'uomo vestito di nero. Aveva la faccia di uno che ha i denti allegati per aver mangiato prugne acerbe, cotta dal sole ed espressiva di una misteriosa intelligenza, e sempre con quella smorfia di disgusto. Non mi piace davvero. Ma anche l'altro, quello che c'era prima, non ti piaceva. E che dobbiamo cambiarne uno ogni 15 giorni? Disse sorridendo l'uomo biondo ed elegante che gli sedeva al lato, anche lui siciliano e soltanto nella struttura fisica e nei modi diverso dall'altro. Erano in un caffè di Roma, una sala tutta rosa e silenziosa, specchi, lampadari come grandi mazzi di fiori, una guardarobiera bruna e formosa, da sbucciare come un frutto di quel suo grembiule nero. Non da farglielo levare, pensavano l'uomo bruno e l'uomo biondo, da scucirglielo addosso. Quello non mi piaceva per la storia dei porto d'armi, disse l'uomo bruno. E prima di quello dei porto d'armi ce n'era uno che non ti piaceva per la storia del confino. E che? Cosa da niente, il confino? Non è cosa da niente, lo so, ma per un verso o per l'altro mai uno che ti vada a genio. Ma ora la cosa è diversa. Che un uomo simile stia dalle nostre parti dovrebbe pungere più a lei che a me. Ha fatto il partigiano. Con la fungaia di comunisti che abbiamo mandano uno che ha fatto il partigiano. Per forza le cose nostre debbono andare a sfascio. Ma ti risulta che protegge i comunisti? Gliene racconto solo una. Lei sa come vanno le zolfare in questo momento. Io maledico l'ora in cui mi sono messo in società con Scarantino nella zolfara che lei sa. Ci stiamo rovinando. Tutto il sangue mio, quel poco di capitale che avevo, la zolfara se lo sta mangiando. Dunque, sei rovinato, disse l'uomo biondo, incredulo e ironico. Se non sono completamente rovinato, lo debbo a lei e al governo che per la verità della crisi dello zolfo si prende preoccupazione. Se ne prende tanta che col denaro che tira fuori potrebbe pagare il salario agli operai al giusto e regolarmente, senza farli scendere nella zolfara. E forse sarebbe meglio. Dunque, le cose vanno male. E si capisce, vanno male per tutti. Non è che lo scotto debbo pagarlo solo io, anche gli operai debbono pagare la loro parte. E non hanno avuto salario per 2 settimane. Per 3 mesi, corresse l'altro sorridendo. Non ricordo con precisione. Ed ecco che mi fanno la protesta. Fischi davanti casa mia, parolacce che non le dico, roba da ammazzarli. Ebbene, vado a ricorrere da lui e sa che mi dice: avete mangiato oggi? Ho mangiato, dico. E anche ieri, fa lui. Anche ieri, dico io. E la vostra famiglia non soffre fame, vero? Mi domanda. Ringraziando Dio, dico, non la soffre. E questa gente che è venuta a far cagnara davanti casa vostra, ha mangiato oggi? Stavo per dirgli, e che me ne fotto io se ha mangiato o non ha mangiato? Ma per educazione rispondo, non lo so. Lui mi fa, dovreste informarvi. Io dico, sono venuto da lei perché stanno davanti casa mia e mi minacciano. Mia moglie e le mie figlie non possono uscire manco per andare a messa. Oh, dice, le faremo andare a messa, siamo qui per questo. Voi non pagate gli operai e noi facciamo andare a messa vostra moglie e le vostre figlie. Con una faccia, che lo giuro, e lei sa quanto sono caldo, mi faceva venire il prurito alle mani. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, disse increscendo l'uomo biondo, con tono che riprovava la tentazione alla violenza e al tempo stesso raccomandava prudenza. I miei nervi ora sono forti come le corde di un argano. Non sono più quello di 30 anni addietro, ma dico, si è mai sentito uno sbirro parlare così a un galantuomo? È un comunista. Solo i comunisti parlano così. Non sono solo i comunisti, purtroppo. Anche nel nostro partito ce ne sono che parlano così. Se tu sapessi la battaglia che dobbiamo sostenere giorno per giorno, ora per ora. Lo so, ma io faccio giudizio netto. Sono comunisti anche loro. Non sono comunisti, disse malinconicamente assorto l'uomo biondo. Se non sono comunisti, basterà che il Papa dica quello che deve dire, ma che lo dica chiaro e forte, e resteranno imbalsamati. Non è così semplice, ma lasciamo perdere. Torniamo alle cose nostre. Come si chiama questo comunista? Bellodi, mi pare. Comanda la compagnia di C. Ci sta da 3 mesi e ha già fatto guasto. Ora sta cacciando il naso negli appalti. Anche il commendator Zarcone si raccomanda a lei. Mi ha detto, stiamo in speranza che l'onorevole lo faccia ritornare a mangiare polenta. Il caro Zarcone, disse l'onorevole, come sta? Potrebbe stare meglio, disse l'uomo bruno allusivo. Lo faremo stare meglio, promise l'onorevole. Il capitano Bellodi, comandante la compagnia carabinieri di C, aveva davanti il confidente di S. Lo aveva fatto chiamare, con le solite precauzioni, per sapere cosa pensasse dell'omicidio di Colasberna. Di solito, quando in paese succedeva qualcosa di grosso, il confidente si faceva vivo spontaneamente. Stavolta c'era voluta la chiamata. L'uomo era pregiudicato, ladro di pecore nell'immediato dopoguerra e ora, a quanto si sapeva, soltanto mediatore di prestiti a usura. Faceva il confidente un po' per vocazione, un po' illudendosi di avere così privilegio di impunità nel mestiere che faceva. Un mestiere che, in confronto a quello di rubare a mano armata, considerava onesto e giudizioso, da padre di famiglia. L'aver rubato al passo, diceva, errore di gioventù, che senza una lira di capitale, scorrendogli tra le mani il denaro degli altri, riusciva ora a campare 3 figli e la moglie, e denaro metteva da parte per impiegarlo domani in un piccolo commercio. Mettersi dietro un banco di bottega a misurare tessuti era il sogno di tutta la sua vita. Ma a quell'errore di gioventù, al fatto di essere stato in galera, era legato il facile e lucroso mestiere che faceva, perché coloro che gli affidavano il denaro, insospettabili galantuomini che amavano l'ordine sociale e le messe cantate, contavano sul suo prestigio affinché i debitori non sgarrassero nella puntualità dei pagamenti e nel segreto da mantenere. E infatti, per il timore che il mediatore sapeva incutere, ho lasciato la giacca al lucciardone, soleva dire per celia o per minaccia, e dunque ammazzando qualcuno sarebbe tornato a prenderla, ma in verità il pensiero del carcere gli dava sudore di morte, i debitori pagavano il 100% di usura e alle scadenze. E le rare dilazioni venivano concesse con un criterio di progressione che, per fare un esempio, di uno che col prestito ricevuto avesse comprato un mulo necessario per la salma di terra che possedeva, in capo a 2 anni il creditore si prendeva il mulo e la salma di terra. Non fosse stato per la paura, il confidente si sarebbe ritenuto felice e nell'anima e negli averi galantuomo. La paura gli stava dentro come un cane arrabbiato, guaiva, ansava, sbavava, improvvisamente urlava nel suo sonno e mordeva, dentro mordeva, nel fegato e nel cuore. di quei morsi al fegato che continuamente bruciavano e dell'improvviso doloroso guizzo del cuore come di un coniglio vivo in bocca al cane, i medici avevano fatto diagnosi e medicine gliene avevano dato da riempire tutto il piano del Comò. Ma non sapevano niente, i medici, della sua paura. Stava davanti al capitano, girando nervosamente tra le mani il berretto, seduto un po' di lato per non guardarlo in faccia, e intanto il cane mordeva, ringhiava e mordeva. La serata era gelida. Nell'ufficio del capitano una stufetta elettrica dava una così tenue ala di calore da far sentire più gelido lo spazio della grande stanza, quasi vuota di mobili e pavimentata di quelle antiche mattonelle valenziane che per il colore dello smalto e per il freddo che c'era parevano di ghiaccio. Ma l'uomo sudava. Un freddo lenzuolo di morte già lo avvolgeva, freddo sulla bruciante rosa della lupara che nel suo corpo si apriva. Fin dal momento che aveva saputo della morte di Colas Berna, il confidente aveva disegnato la sua menzogna. Ad ogni dettaglio che aggiungeva, ad ogni ritocco, come un pittore che si allontana dal quadro per giudicare l'effetto di una pennellata, diceva «perfetto». Non manca più niente, ma di nuovo si avvicinava a ritoccare e ad aggiungere, e mentre al capitano raccontava, ancora febbrilmente ritoccava e aggiungeva. Ma il capitano sapeva, da tutto un fascicolo relativo a Calogero di Bella, detto Parrinieddu, confidente, che l'uomo, tra le due cosche di mafia del paese, cosca, gli avevano spiegato, è la fitta corona di foglie del carciofo, era vicino, se non dentro, a quella che aveva addentellati certi, anche se non probabili, con i lavori pubblici, mentre l'altra cosca, più giovane e spericolata, aveva a che fare, essendo esse un paese di mare, col contrabbando delle sigarette americane. Prevedeva perciò la menzogna del confidente. Ma era comunque utile osservarne nella menzogna le reazioni. Ascoltava senza interromperlo e più lo metteva in disagio di tanto in tanto distrattamente annuendo. E intanto pensava a quei confidenti che erano rimasti sotto uno strato leggero di terra e di foglie secche nelle rughe dell'Appennino, miserabili uomini, fango di paura e di vizio, eppure giocavano la loro partita di morte sul filo della menzogna. Tra partigiani e fascisti giocavano la loro vita. La sola cosa umana che avessero era questa agonia in cui per la loro stessa viltà si dibattevano, per la paura di morire ogni giorno affrontavano la morte, e infine la morte scoccava, finalmente la morte, ultima, definitiva, unica morte. Non più il doppio gioco, la doppia morte di ogni ora. Il confidente di esse rischiava la vita, una cosca o l'altra, con un colpo doppio a lupara o con una falciata di mitra, anche nell'uso delle armi le due cosche facevano differenza, un giorno lo avrebbe liquidato. Ma tra mafia e carabinieri, le due parti tra cui muoveva il suo azzardo, la morte poteva venirgli da una sola parte. Da questa parte non c'era la morte. C'era quest'uomo biondo e ben rasato, elegante nella divisa. Quest'uomo che parlava mangiandosi le esse, che non alzava la voce e non gli faceva pesare disprezzo. Eppure era la legge, quanto la morte paurosa. Non per il confidente, la legge che nasce dalla ragione ed è ragione, ma la legge di un uomo, che nasce dai pensieri e dagli umori di quest'uomo, dal graffio che si può fare sbarbandosi o dal buon caffè che ha bevuto, l'assoluta irrazionalità della legge, ad ogni momento creata da colui che comanda, dalla guardia municipale o dal maresciallo, dal questore o dal giudice, da chi ha la forza, insomma. Che la legge fosse immutabilmente scritta ed uguale per tutti, il confidente non aveva mai creduto, né poteva. Tra i ricchi e i poveri, tra i sapienti e gli ignoranti, c'erano gli uomini della legge, e potevano questi uomini allungare da una parte sola il braccio dell'arbitrio, l'altra parte dovevano proteggere e difendere. Un filo spinato, un muro, e l'uomo che aveva rubato e scontata una condanna, che stava coi mafiosi e mediava prestiti ad usura e faceva la spia, cercava soltanto una breccia nel muro, uno slargo nel filo spinato. Presto avrebbe avuto in mano un piccolo capitale e aperto un negozio. E il figlio più grande teneva in seminario che si facesse prete o ne uscisse prima di prendere gli ordini per diventare, meglio che prete, avvocato. Varcato il muro, non poteva più far paura la legge. E bello sarebbe stato guardare quelli rimasti di là del muro, del filo spinato. Così, lacerato dalla paura, a vagheggiare la sua pace futura, fondata sulla miseria e l'ingiustizia, un po' si consolava, e il piombo della sua morte intanto colava. Tony Servillo ha letto Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.